9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi il gatto per così dire è un po' preoccupato perché vede che giorno dopo giorno questa eruzione è stata un po' presa sotto gamba all'inizio, poi ha terrorizzato un po' tutti verso il prosieguo perché tutti toccano con mano dimenticando la fralezza della nostra civiltà tecnologica che poi la natura quando ci si mette ricorda a tutti quello che ci diceva il buon Leopardi a proposito dello Sterminator Vesevo, ve lo ricordate nella ginestra, oppure quello che, altra lettura che vi consiglio, ci diceva il buon Lucrezio sul De Rerum Natura, avete presente Timpana Tenta Tonant, quei versi che ci parlano delle scosse telluriche che ricordano all'uomo che poi la natura insomma fa un po' quello che vuole, ha la forza di fare quello che vuole. Piccola parentesi per dire che non sono molto d'accordo con i giornali che improvvisamente scoprono la debolezza della civiltà tecnologica. L'essenziale per gli esseri umani consapevoli del proprio patrimonio tecnologico è capire che nel lungo periodo e come forza relativa il pianeta risponde a logiche, dinamiche, forze che sono e restano, senza che l'uomo debba pensare al contrario, incommensurabilmente superiori alla nostra capacità di dominarlo, e questo anche relativizza il cosiddetto fattore antropogenico, cioè tutte queste modificazioni che secondo gli ambientalisti estremisti gli esseri umani apporterebbero al pianeta. Non è così, e ce lo ricorda questo vulcano islandese. Ringrazio l'ascoltatore, perché non si finisce mai di imparare, che pochi minuti fa ci ha mandato un SMS che ci invita a una precisazione, perché lo leggo, si chiama Michele Nuzzo, il nostro ascoltatore, e lui dice: il vulcano islandese in questione, le cui conseguenze ci occupiamo oggi, si chiama in realtà Fimrwalsi, questo è il vero nome del vulcano. E mentre invece tutti i giornali portano il nome, di cui vi diamo la dizione precisa, ecco la dizione precisa. In qualunque modo si dica, io continuerò a far andare solo questa perché quella è precisa, ma questo nome riportato da tutti i giornali, ci dice il nostro ascoltatore vulcanologo, non è affatto il nome del vulcano, questo è il nome del ghiacciaio, perché quell'ultime che avete sentito in islandese significano appunto ghiacciaio. Riascoltiamo secondo il nome del ghiacciaio, non del vulcano? Ecco, e lui, il nostro ascoltatore, ci dice: state attenti a ripetere, perché è come se gli islandesi, quando erutterà il Vesuvio, dicessero eruzione della Campania. E poi quindi noi ringraziamo il nostro Michele Nuzzo che ci ha dato questa precisazione. In realtà nella trasmissione di oggi ci occupiamo delle conseguenze del ghiacciaio che si è squagliato, per così dire, perché il problema della nube e delle particelle di silicio, che abbiamo improvvisamente capito non essere in grado di capire quanto siano pericolose, a che altezza siano diffuse, le vediamo, non le vediamo, chi le deve rilevare per conto di tutta l'Europa, e quindi per principio di precauzione abbiamo iniziato a mettere a terra un numero crescente di decine di migliaia di voli in tutta Europa, ci ha fatto scoprire che come sempre sulla regolazione siamo molto deboli. Di qua un impatto di centinaia di milioni di euro ogni giorno per il settore del trasporto aereo, che ha iniziato a protestare legittimamente, penso, anche di fronte al fatto che il coordinamento europeo e la precisazione delle indicazioni scientifiche in base alle quali atterrare tutto il traffico, a giudizio delle compagnie, facevano lasciavano a che desiderare. Ci porremo tutti questi interrogativi con voi e soprattutto siamo molto interessati a capire l'800240024 se davvero questo evento, oltre magari ad aver creato problemi a ciascuno di voi o a qualcuno o a molti anzi di voi che sono rimasti a terra, vi ha anche colpito nell'immaginario, o se invece minoritariamente, io la penso così, non debba essere assunto come una conferma dei nostri limiti precisi all'interno della storia di lungo periodo di questo frammento tra tanti altri miliardi di frammenti nell'universo. Allora, iniziamo con i nostri ospiti di oggi. Abbiamo innanzitutto collegato con noi, lo ringrazio, Guido Guidi, tenente colonnello del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. Abbiamo poi Andrea Giuricin, giornalista e fellow dell'Istituto Bruno Leoni ed esperto di traffico aereo. Buongiorno Andrea Giuricin. Buongiorno a tutti. E Gregoria Laleggi, che è docente alla LUIS e insegna gestione delle compagnie aeree, direttore anche di Dedalo News, quotidiano online di aerospazio, difesa e sicurezza. Buongiorno professor Laleggi. Buongiorno. buongiorno. Allora, comincerei con il nostro tenente colonnello, dal quale farci dire un pochino le modalità di rilevamento dell'espansione di questa nuba e un pochino di particolari in più, molto si è letto sui giornali, su quale è il grado di coordinamento e qual è l'attendibilità nel rilevare, al di là dell'espansione delle nubi, altezza e pericolosità poi di queste particelle di silicio, che sono la parte più rilevante del problema, perché sono quelle che entrano in un reattore, poiché hanno questa dannata particolarità di esplodere sopra i 1100 gradi, e nei reattori le temperature sono molto più elevati, e è per questo che, per evitare incidenti, poi si mette il traffico a terra. Come va la nube e quanto la nube che siete in grado di rilevare voi è davvero quella che può minacciare o meno il traffico aereo, tenente colonnello? Ma guardi, sostanzialmente bisogna innanzitutto dividere il discorso in due piani differenti. Il primo è quello a cui giustamente in un primissimo istante hanno fatto riferimento le autorità nazionali e internazionali del traffico aereo, ovvero quello di cercare di capire, attraverso gli strumenti di simulazione disponibili, quale diffusione avrebbe potuto avere lo spostamento di delle particelle del particolato espulso da questa eruzione, cosa che tra l'altro nella serata di ieri sembrava fosse in attenuazione, ora invece in questa mattinata sembra che ci sia un altro impulso di questo materiale che sta dirigendosi dall'Islanda verso la Gran Bretagna. E queste simulazioni che non danno delle indicazioni circa la concentrazione di queste sostanze, ma ne danno un'idea circa possibile spostarsi sul territorio, hanno dato delle indicazioni della necessità di prendere dei provvedimenti. Altro discorso è quello della misurazione, nel senso che ovviamente non esiste nessun modello di previsione che possa esistere senza un riscontro oggettivo, ovvero senza delle misurazioni reali di quello che effettivamente accade. E queste sono arrivate, stanno arrivando un secondo momento, soprattutto a partire dagli ultimi uno o due giorni, e stanno dando delle indicazioni un po' più precise, che vanno nella direzione, almeno per quel che riguarda il nostro territorio, da quel che è stato rilevato dai gruppi di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Uno di questi tra l'altro opera in stretto coordinamento con il laboratorio del Monte Simone e del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, danno delle indicazioni circa un segnale di aumento di presenza di particolato negli strati più bassi dell'atmosfera. Parliamo intorno alle quote tra i 1700 e i 3400 metri, rilevati sia con misure di tipo di prossimità, cioè al suolo, ma in quota, ovvero misurate sulla cima del Monte Cimone, sia da misure remote con una strumentazione che è in grado di indagare la presenza o meno di questo particolato in atmosfera. Io la interrompo su questo, perché nella lettura dei giornali di questi giorni non è stato molto chiaro al lettore che non è versato in questioni tecniche se davvero esistano metodologie di rilevamento di questo tipo di particolato o di particelle analoghe nei diversi strati dell'atmosfera, per capire anche che impatto hanno con i velivoli, cioè se esistono palloni, metodologie, perché taluni dicono sì, altri dicono no. Quello che non si capisce è se c'è nel sistema nazionale di sicurezza aerea e di rilevamento meteorologico qualcuno che ha i mezzi per fare sistematicamente questo tipo di rilevamenti. Guardi, in realtà queste misure vengono fatte, non da molto tempo, ma vengono fatte. Parliamo più o meno a partire dall'anno 2000, tra l'altro non con riferimento alla problematica traffico aereo, ma più che altro con riferimento al controllo della qualità dell'aria. Sono fatte da una rete di punti di osservazione più o meno diffusa sul territorio, non sono molti i punti di osservazione, ma d'altronde parliamo comunque di osservazioni che possono essere, essendo in quota, essere rappresentative di aree abbastanza vaste. Come quello che citava prima il Monte Cimone? Come uno è quello del Monte Cimone, altri sono nel meridione d'Italia, che effettivamente hanno la possibilità di fare queste misurazioni. Attenzione però che sono misurazioni che danno delle informazioni circa la presenza di particolato, non del tipo di particolato, ovvero si può capire quali sono le dimensioni, per esempio quel che è stato rilevato al Monte Cimone, si parla di particelle che vanno di dimensioni poco sotto al micron o superiori al micron, che sono in sospensione né più né meno, come per esempio accade quando ci troviamo in condizioni di una forte sciroccata che porta della sabbia desertica dal Nord Africa verso il nostro territorio. Ora, è chiaro che dal momento che il segnale che è stato rilevato da questi sistemi di osservazione si è palesato a partire più o meno dalle prime ore della giornata di ieri, esattamente in coincidenza con il momento in cui la circolazione atmosferica in quello strato della bassa troposfera ha assunto una direzione di provenienza nord-occidentale, cioè nel momento in cui l'aria ha cominciato ad essere trasportata con maggiore decisione dalle latitudini settentrionali verso le nostre regioni. In quel momento si è registrato un aumento della presenza di queste particelle e quindi, con ottima approssimazione, si può pensare che queste particelle appartengano, appunto, siano una parte di quelle che sono state espulse dal vulcano e che da giorni ormai si muovono nei cieli d'Europa. Grazie al tenente colonnello Guido Guidi. Il punto è che a 5 giorni dall'inizio dell'impatto dell'evento sul traffico aereo, stamane, nel momento in cui vi stiamo parlando, alle 9:23, in realtà la situazione della mappa europea e delle decisioni assunte dalle diverse autorità del traffico aereo appare singolarmente difforme rispetto al tono generale del principio di precauzione che prevaleva fino a ieri. In Italia, lo sapete, dalle ore 7 di questa mane è iniziata la graduale riapertura del traffico aereo. British Airways ha informato stamane, pochi minuti prima delle 8, in realtà, di continuare nell'atterramento del traffico di corto e medio raggio per tutte le tratte che fanno capo verso la Gran Bretagna e dalla Gran Bretagna. In Norvegia la decisione assunta stanotte e che è partita dalle prime ore di questa mattina è una nuova chiusura parziale dello spazio aereo, cioè funzionano solo le rotte che vanno verso Oriente e Sud, mentre nel caso, se vediamo un po' gli altri paesi, sto aprendo i file, Polonia, chiusura dello spazio aereo, la Lufthansa oggi informa di prevedere circa il 15-16% del proprio operativo nazionale, anche in questo caso le direzioni sono verso sud ed est Europa, mentre invece le autorità francesi hanno informato stamattina nelle prime ore della giornata di prevedere che siano operativi circa i 3/4 dei voli. Quindi vedete che sia pur paesi coperti, se uno va a vedere la diffusione, quella che tutti guardano, quelle delle cartine del MET, no? Del Servizio Meteorologico Britannico, paesi anche coperti apparentemente dal fenomeno della nube espansa nei giorni precedenti in maniera analoga, hanno assunto decisioni sul traffico aereo oramai aperte in una forbice di possibilità. Ed è queste decisioni che dobbiamo un pochino approfondire per capire, la domanda si fanno tutti, ma in fondo l'Europa si è scoperta debole dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista della sicurezza aerea, è prevalsa troppa paura e troppa cautela oppure no, e alla fine chi li paga questi danni? Dovranno ripagarli i contribuenti ancora una volta, oppure le aziende aeree che già sono reduci da anni di terribili colpi ai propri bilanci per la recessione sono in grado di far fronte anche a questo? Ecco, questa è la mia prima domanda ad Andrea Giuricin, mi è parso di capire che le compagnie fremessero un po' in questi giorni, o no? Sì, in questi giorni assolutamente le compagnie sono andate in panico completo, giustamente. Si stimano circa 150 milioni di euro ogni giorno di perdite. I ricavi scenderanno di almeno 500 milioni di euro per quanto riguarda Lufthansa e Air France. Sono cifre davvero spaventose per una compagnia aerea. E non è un caso che gli amministratori delegati di tutti i gruppi si siano mossi per cercare di fare pressione sull'Unione Europea, sulla Commissione Europea, per cercare di avere dei principi di apertura delle zone del volo un pochettino meno restrittivi. Il problema è stato molto grande, perché la chiusura è stata totale sui principali aeroporti. Si parla di Londra, di Amsterdam, di Parigi, di Francoforte, tutti aeroporti che hanno più di 50 milioni di passeggeri ogni anno. Non è un caso quindi a questo punto che ad esempio ieri il presidente di British Airways l'altro ieri abbia deciso di fare un volo di prova sopra i cieli interessati dalla nube vulcanica per dimostrare che questa nube vulcanica così pericolosa non era. Da questo punto si può dire che l'Unione Europea abbia un pochettino esagerato il mio punto di vista sulla restrizione dei voli. Cioè il principio di precauzione è stato adottato in assenza di dati reali che confermassero la validità del principio di precauzione? Cioè gli incidenti che vengono sempre regolarmente ripetuti in questi giorni dai giornali, il velivolo 747 che in Indonesia gli si spengono i motori, bravissimi piloti che lo fanno planare per decine di miglia facendogli perdere in pieno assetto di controllo 11.000 metri di quota fino a che poi i reattori uno dopo l'altro a bassissima quota ormai si riaccendono e l'aereo viene riportato poi regolarmente a destinazione dai bravissimi piloti. Quel fenomeno riguardava vicinanze a fenomeni eruttivi molto più prossimi, mi pare di capire. E quindi in assenza di altri dati lei dice, oppure questi dati ci sono e noi non li conosciamo. Questa è la realtà che io non riesco a capire. No, a mio parere l'Unione Europea innanzitutto si è mossa con molto ritardo, perché non è possibile che da giovedì scorso sia iniziato questo fenomeno e la prima riunione sia stata fatta il lunedì, cioè sia stato lasciato passare tutto il weekend per poi prendere una decisione che era abbastanza ovvia. Cerchiamo di valutare meglio quali sono le zone realmente colpite e hanno deciso per un criterio di dividere, a mio parere, non so su quali dati effettivamente, perché comunque i dati sono sempre gli stessi da tre giorni a questa parte, che sono quelli del Met Office, quindi sempre sui soliti dati si è deciso di dividere in tre zone. La prima zona è quella più prossima al vulcano, dove le ceneri vulcaniche sono così pericolose che in questa zona si continua, non vi è la possibilità di volare. Una seconda zona, ad esempio comprendente la Francia, che invece pur in presenza di cenere vulcaniche si potrà volare con dei continui monitoraggi. La terza zona, quella tipo dell'Italia del Sud e della Spagna, che non è stata, diciamo, colpita dalla cenere vulcanica. Una decisione tale poteva essere già presa venerdì scorso, senza lasciare passare tutto il weekend e annullare decine di migliaia di voli. Sì. Perché qua si parla di ormai più di 60-70 mila voli annullati. Sì. E quindi, e oltretutto, ripeto, oltre ai danni per le compagnie, ai danni per tutti i settori dell'economia che fanno traffico merci con merci particolarmente deperibili o di particolare valore aggiunto, non solo quelle agroalimentari, stiamo parlando dei danni per tutte le grandi società che gestiscono gli aeroporti che citava Giuricin, cioè quelli da oltre 50 milioni di traffico al giorno. Una settimana di danno di queste proporzioni significa un milione di persone media, capite, ai quali bisogna poi offrire situazioni eccezionali, dare servizi che costano a chi gestisce l'aeroporto, con proventi che vengono invece meno tragici, quindi è una condizione abbastanza particolare. La domanda invece per il professor Leggi è questa qua: ci è stato spiegato che l'atterramento del traffico serve per evitare che appunto le particelle il particolato vada nei motori e praticamente inibisca o danneggi o addirittura provochi delle micro macro esplosioni nelle pale dei reattori. Ma nella realtà i dati che noi avevamo accumulati su evidenze di questo tipo A fronte del fatto che poi i voli organizzati dalle compagnie in questi giorni, quelli che ricordava Giuricin, arrivano alla conclusione opposta, che qui di grandi rischi non ce ne sono. Ieri si è parlato di un volo di un caccia militare però della NATO che ha avuto qualche problema, sarebbe interessante capire dove di precisione ha volato. Ecco, ma in realtà dal punto di vista della tecnologia aeronautica, i dati precisi a cui fare riferimento per prendere decisione di questo impatto, quali sono, professor Aleni? L'unico parametro oggettivo dovrebbe essere quello della concentrazione del particelle di silicio nell'aria, però è un problema poco noto, non c'è tra i 1000 standard di certificazione, tra i 1000 requisiti che un motore deve affrontare per essere, diciamo, accettato in servizio commerciale, non c'è al momento un requisito specifico per la cenere, per la polvere vulcanica. Questo ci indica che il fenomeno, pur ovviamente presente da tempo, non è in termini assoluti considerato tra i più rilevanti ai fini della sicurezza. Ci sono standard rigidissimi per l'ingestione di corpi estranei, a partire dal classico gabbiano o notizie di questi giorni, la famosa lepre. La lepre, sì, la lepre. Ecco, la lepre. Però in realtà la polvere vulcanica non ha una regolamentazione quantitativa specifica, quindi è abbastanza difficile valutarlo. Teniamo presente un paradosso che è sfuggito un po' in questi giorni, che in realtà proprio nei paesi più interessati, abbiamo parlato prima dei paesi del nord Europa e di alcuni test fatti dalle compagniere, ebbene in Gran Bretagna e in Francia ad esempio l'aviazione generale, quindi con i piccoli aeroplani, diciamo, da aeroclub ad elica, è libera di volare. Tuttora. Infatti molti dei nostri ascoltatori si sono chiesti se il velivolo a turboelica non sia quello che doveva riapparire in forza per gestire l'emergenza. La turboelica in realtà no. Diciamo, appunto, prevale la parte turbina, quindi è un motore come quello del jet, solo che alla fine aziona un'elica. Proprio i sani vecchi pistoni. I cari vecchi pistoni, quelli che abbiamo dentro la nostra automobile, quelli hanno i loro bravi filtri dell'aria e volano in piena sicurezza. Quindi stiamo parlando comunque di eventualità abbastanza ridotte e di problemi tutto sommato poco noti. Quindi anche, ma però lei dice meglio nel poco noto assumere il principio di precauzione nella sfera più ampia, oppure si è esagerato effettivamente nella cautela? Io credo che quello che diceva Giuricin prima sia il fatto più significativo. In una situazione di emergenza il vero danno per una sana gestione di una compagnia aerea è l'incertezza. Però allora adesso vi interrompo perché sono in ritardo con la pubblicità e questo lo dico agli ascoltatori che dicono che come al solito mi sto occupando più dei danni economici che della sicurezza. No, nessuno di noi voleva che ci fossero incidenti e stragi, però la lentezza e l'inefficienza dei primi giorni di risposta alla rete europea, parentesi, io poi sull'Europa sapete che sono un po' euroscettico, parentesi, effettivamente fa pensare un po' che tutte queste reti istituzionali funzionano male, c'è poco da fare. È vero, l'evento vulcanico, come ci dicono gli esperti, ce l'hanno appena detto, è uno di quelli non certificati, diciamo così, e quindi non rilevati sistematicamente, però insomma attenzione anche a non esagerare poi con la cautela, anche se io devo dare atto, i nostri ascoltatori dicono meglio più cautela che poca cautela, però i problemi creati a questa Europa bloccata non sono neanche così trascurabili. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della risposta europea, un po' in ritardo abbiamo visto, ai problemi dell'eruzione. Ripeto, sentiamo come si chiama bene il nostro vulcano islandese? Ecco, in realtà non è il vulcano islandese, abbiamo preso oggi, questo è il ghiacciaio islandese che squagliandosi per colpa del vulcano crea poi l'enorme nube. In realtà anche tutte le maggiori testate, Wall Street Journal, Financial Times, eccetera, eccetera, solamente 4 ore oggi, hanno messo in chiaro, lo dico per gli ascoltatori che dicono che sto facendo troppa economia su un problema di sicurezza mondiale, che questo ritardo e questa divergenza nei criteri interpretativi dei rischi nella sicurezza del traffico aereo è stato l'aspetto più rilevante, quindi un bel po' di questi danni forse si potevano evitare. Ora iniziamo a sentire alcune telefonate di alcuni di voi. Iniziamo con Mario da Brescia. Mario, lei che pensa? Un eccesso di precauzione o la precauzione non è mai abbastanza? No, io dico che la UE ha mostrato proprio i suoi limiti, perché oltre che il ritardo, che può anche essere giustificato dal fatto di trovarsi di fronte a un fenomeno nuovo e non saperlo interpretare, in realtà l'approccio è stato sbagliato, perché ognuno ha approcciato come ha voluto. La cosa più grave è che tre giorni dopo l'Italia, che ha potuto, come dire, godere di qualche giorno di vantaggio, ha preso la decisione più sbagliata che ci fosse, quella di dire che ieri mattina alle 7 si sarebbe ripreso a volare, e questo ha provocato questa è la caos. Decisione che ieri è stata diramata dall'ENAC, vero? Sì, esattamente, sì. Quella dell'ente dell'aviazione civile, questa diramazione del Ministero dei Trasporti, che ha sbagliato completamente. Giunti a quel punto lì si doveva dire che la ripresa era sospesa sine die, di modo che quando uno va in aeroporto siamo sicuri che si vola. Così ieri abbiamo fatto casino su casino e il risultato è stato quello di avere le stazioni intasate, di avere i sistemi ferroviari completamente presi d'assalto e incapaci assolutamente di dare delle risposte alla situazione. L'altra vicenda è quella che l'Italia brilla ancora, mentre tutti gli aeroporti europei hanno messo in ferie i loro dipendenti per questi primi giorni, ce n'è uno solo in Italia, mentre tutti gli altri hanno messo in ferie i loro dipendenti, che sono quelli di Milano, che li hanno messi in cassa integrazione, perché potevano godere di un provvedimento acceso qualche anno fa, che durerà fino al 2011 solo per loro, e anche questo comporta poi dopo un problema, insomma, di diseguaglianza tra le stesse imprese che gestiscono gli aeroporti. Insomma, ogni volta che succede qualcosa di imprevisto c'è qualcuno che ci perde e qualcuno che ci guadagna, in questo caso che ci perde meno. E poi però lei non può dimenticare un'altra questione, insomma, che dietro tutto questo gran casino abbiamo la possibilità di verificare se ci sono soluzioni alternative nei corridoi europei o se non ci sono, se c'è offerta di trasporto terrestre oppure no, e poi di verificare, insomma, qual è la nostra condizione di fronte ad un evento imprevedibile. Insomma, dobbiamo cominciare a valutare anche questo. Grazie Mario da Brescia. Io faccio notare a tutti però che, malgrado sappiamo perfettamente che rispetto ai tempi medi di risveglio e di emissioni che a volte conoscono anche intense fasi esplosive, sto parlando del nostro Vesuvio, malgrado sappiamo perfettamente che dal 44, ultima grande eruzione, oramai il lasso medio di tempo è tale da giustificare nel lungo periodo storico dell'attività di quel vulcano che un evento possa essere oramai prossimo, cioè malgrado abbiamo tutti fatto finta, o almeno tutti coloro che vivono lì hanno costruito lì, hanno fatto costruire lì, hanno presieduto a dei piani regolatori, lo dico con un po' di sorriso, con qualche punto interrogativo, è tutto costruito, per chi conosce la realtà, dalla parte di Ottaviano, Tersigno, dall'altra parte, no? Dove c'è San Giovanni, eccetera, eccetera. Che cosa succederà quel giorno? Scopriremo anche quel giorno che non ce lo aspettavamo? Ma io francamente spero di non esserci quel giorno, perché a pensare ai miliardi di euro per il contribuente italiano che costerà e alle sventure che capiteranno a tutti coloro che abitano da quelle parti, non vorrei esserci il giorno in cui scopriremo. Ma come? Non lo sapevamo. Chi ce l'ha detto che poteva avvenire? E come, chi ce l'ha detto? Però scusate questa parentesi, ma credo che poi problemi di questo tipo hanno a che vedere con la nostra capacità di ricordarci i nostri limiti e di tenerne conto senza sfidare la natura. Un altro ascoltatore, Lauro, dalla provincia di Milano, prego. Buongiorno, dottor Gennino, buongiorno a tutti. Io da ex pilota di linea stavo suggerendo, non esiste soltanto il caso della British Airways in Indonesia, che ha avuto il problema di spegnimento dei motori, ma un altro 747 prima ancora, della KLM olandese, in volo verso l'ovest degli Stati Uniti, credo, comunque sull'Atlantico o sopra il Canada, da quelle parti, entrò in una nube che era stata evidentemente dei servizi meteo della compagnia in qualche modo sottovalutata o non segnalata opportunamente, ed era una nube di un vulcano nell'Alaska, quindi molto lontano dal punto di missione. E il problema è che cioè anche lui ha avuto, come il caso British, quattro motori spenti, poi pian piano si sono recuperati durante la discesa planata e ha recuperato tutto quanto, insomma, quindi niente è successo. Però lei dice l'evento è stato tale da confermare la necessità di un allarme e di una cautela molto estesa, vista la lontananza anche in quel caso dal vulcano. Perché non ci sono dati, il sistema è così difficile da trattare, cioè quali sono i limiti e la marginalità di queste onde e quali sono i venti dominanti, insomma, per cui sicuramente la zona dell'Europa settentrionale centrale deve essere stata interessata, noi penso marginalmente, se non che il sistema è così complesso, i corridoi, le possibilità di avere delle quote piuttosto che altre, basse quote, insomma gli stradamenti che si possono fare verso sud, centro atlantico piuttosto che al nord, dove passano tutte le rotte per il Nord America, insomma il discorso di precauzionalità tutto sommato ritengo che sia abbastanza corretto. Eccoci tornati in studio. Tra i nostri ascoltatori è forte anche la domanda per sapere: ma le compagnie di fronte a cose di questo genere reagiscono coordinandosi nelle condizioni di rimborso, di offerta di servizi alternativi, al di là del minimo di standard previsto ovviamente dai contratti di servizio e di trasporto, oppure c'è concorrenza anche nell'offerta di diverse alternative al passeggero che resta a terra per giorni? E questa è la domanda che alcuni dei nostri ascoltatori chiedono che io rivolga al consigliere amministrazione di Meridiana Fly, Claudio Miorelli. Voi come vi siete regolati? Ma noi ci siamo, buongiorno innanzitutto a tutto, noi ci siamo regolati innanzitutto con grande rispetto nei confronti dei passeggeri, che sono la nostra linfa vitale evidentemente. Mi sembra evidente anche il fatto che casi di questo genere sono da tutti compresi come casi di forza maggiore, non dipendono certo dal singolo vettore né tantomeno dalle associazioni dei vettori aerei. La nostra posizione è quella di grande rispetto nei confronti del passeggero, quindi il rimborso è assicurato. Non credo si possa parlare di danno causato dal vettore, quindi non si configura come una situazione in cui il vettore debba con senso di responsabilità, come nel caso di una cancellazione per proprie motivi o problemi, quindi non c'è un diciamo concorso alle spese di riprogrammazione dei loro viaggi e quant'altro. Per esempio, noi abbiamo sostenuto costi aggiuntivi inviando degli aerei vuoti in questi giorni a Sharm, oggi qualcuno va a Hurghada, domani a Mauritius, per recuperare quei passeggeri che sono rimasti bloccati in quelle zone. Il costo ovviamente è aggiuntivo, non viene caricato, ci mancherebbe altro, al passeggero, ma questa è la responsabilità che il vettore, almeno per quello che riguarda Meridiana, ci sentiamo di doverci farci carico. Noi in questi giorni, in questi tre giorni diciamo di oggettive grosse difficoltà, abbiamo dovuto cancellare qualcosa come 200 voli, abbiamo stimato di aver perso qualcosa come 20.000 passeggeri, dei quali però almeno la metà pensiamo di recuperarli, nel senso che sono quelli nelle località turistiche che volano con i tour operator, che come dicevo prima andiamo a recuperarli. La perdita effettiva non è ancora facilmente stimabile, c'è sicuramente, in questo senso noi seguiamo con attenzione anche le dichiarazioni del presidente Bisignani della IATA, che ha stimato un complessivo danno fino a ieri di circa 250 milioni di euro. Non sappiamo e non interveniamo noi su queste questioni ovviamente. Ci preme ovviamente poter dare puntuale informazione ai passeggeri. In questo senso le decisioni delle autorità, quanto più prontamente comunicate, tanto più consentono ai vettori di limitare l'ulteriore disagio. Certo, quello che ieri era stato dato come una ripresa dei voli e poi successivamente di nuovo bloccati, ha creato qualche ulteriore non contribuisce, così diciamo, no, che non certo contribuisce. E ripeto, oggi la carta del volo europeo è una carta molto differenziata, cioè, e quindi a volte i criteri oramai iniziano a divergere, per quanto abbiamo ricordato che ci siano tre diverse fasce, no? di sicurezza, però è chiaro che paesi limitrofi stanno adottando, quindi nella stessa fascia stanno in realtà adottando adottando criteri anche molto diversi quanto al ripristino delle percentuali di traffico e a direzioni di traffico esercitato. Abbiamo collegato con noi, io ringrazio il dottor Miorelli di Consiglio di Amministrazione di Meridiana Fly, abbiamo collegato con noi il Massimo Notaro. Ve lo ricordate Notaro? Notaro è non solo un pilota storico dell'Alitalia, ma è stato uno dei protagonisti del movimento associativo dei piloti di Alitalia. Io lo saluto perché ci conosciamo da anni, ma nel ringraziarlo per questa telefonata che ci ha fatto, ricordo che lui fu protagonista addirittura, per capire come si considerano diversamente a volte i principi di cautela, di una vicenda nella quale ci fu chi disse che lui aveva ceduto nella cautela, anzi che era quasi responsabile di interruzione di pubblico servizio. Cosa capitò, Notaro? Buongiorno. Guardi, mi faccia premettere che il fenomeno delle nubi vulcaniche è un fenomeno tra i più pericolosi in assoluto per il volo aereo. Basti ricordare che abbiamo due casi, un B747, un jumbo della British Airways e un jumbo della KLM, a cui si sono spenti tutti e quattro i motori a circa 200 miglia da un'eruzione di un vulcano. Li abbiamo ricordati. Perfetto, allora detto questo non è un fatto, una paturnia di qualcuno quando una mattina si sveglia e dice ma c'è un'eruzione vulcanica, fermiamo gli aeroplani. Gli spazi aerei sono di competenza delle nazioni e ovviamente le autorità hanno il diritto, ma direi il dovere, di fermarli laddove la sicurezza viene posta in gioco. Nella fattispecie, nel mio caso che lei ricordava, successe che c'era l'eruzione del vulcano Etna, l'eruzione del vulcano Stromboli, io vidi la nube vulcanica, la vidi da lontano e potevo capire che era una nube vulcanica perché fino all'Etna. Quindi ovviamente comunque atterrai a Catania prendendo ovviamente delle precauzioni. Dopodiché chiesi che venissero i motori del velivolo perché se la contaminazione fosse stata anche minima poteva essere in ballo la sicurezza. All'epoca il direttore dell'aeroporto decise di denunciarmi per l'interruzione del pubblico servizio. Dopo 3 anni e mezzo il magistrato capì che io non avevo in effetti fatto nulla se non il mio dovere. Io ringrazio Notaro perché in particolare poi soprattutto in quel caso la nube era praticamente, insisteva nella medesima area in cui passava l'aerovia il corridoio aereo, quindi insomma, abbiamo voluto ringraziare Notaro di una decisione presa allora singolarmente, come fa il responsabile di un velivolo, responsabile poi in quel momento ultimo della sicurezza e primo della sicurezza di chi porta a bordo, perché ovviamente grazie poi alla sollecitudine migliaia di uomini che ogni giorno compiono il loro dovere, che noi spesso consideriamo analogo a quello di un impiegato seduto, no? Conducendo i velivoli nei cieli di tutto il mondo, poi è gente che si deve porre in prima persona al di là degli ordinativi delle autorità di sicurezza aerea, delle Unioni Europee eccetera, di capire davvero se non devono dire stop, perché sono loro poi a rispondere delle vite, della sicurezza di coloro che hanno a bordo. Quindi grazie al comandante Notaro. In riflessione finale, torniamo un secondo con Giuricin e Aleggi per tentare di capire che cosa ci ha insegnato questa vicenda. Innanzitutto Giuricin, c'è questo traffico aereo dall'11 settembre, poi la recessione, adesso il vulcano, è un pochino un punto debole delle economie avanzate, cioè forse bisogna pensare a tempi reattivi sulle autorità che ne coordinano le modalità operative, la sicurezza, un pochino diverse, perché ogni volta che noi scopriamo una minaccia di sicurezza nuova, che riscopriamo una minaccia di sicurezza nuova, scopriamo che in realtà nel real time non funziona, una cosa che è tutta organizzata in realtà su operativi in real time, ed è un po' singolare, non trova? Beh, assolutamente è un settore molto molto delicato. Le perdite continue dovute alla SARS, all'11 settembre, alla crisi economica delle compagnie aeree, diciamo che sono compensate in parte dai guadagni che esistono nel settore aeroportuale, che sono dei monopoli legali. Quindi in realtà si può dire che sia un settore un pochettino particolare, dove c'è una concorrenza estrema per quanto riguarda le compagnie aeree e una concorrenza quasi nulla, invece direi nulla, nel settore aeroportuale. Detto questo, questa esplosione vulcanica ci insegna un'altra cosa, il ruolo dell'Unione Europea. Con ritardo si è mossa e soprattutto ieri il commissario alla concorrenza subito si è mosso per dire aiuteremo con dei sussidi chiaramente le compagnie aeree. Quindi l'Unione Europea prima in parte, a mio parere, è stata responsabile di una decisione lenta, non dico che abbia completamente sbagliata, ma sicuramente si poteva riunire prima, venerdì scorso, dopo due giorni di chiusura totale degli aeroporti, e come al solito chi pagherà saranno i contribuenti, perché le compagnie aeree giustamente hanno subito delle perdite così grandi che se continuasse questa situazione si ritroverebbero tutte sull'orlo del fallimento. Professore Leggi, invece dal punto di vista, diciamo così, della tecnologia aerospaziale, questo evento è un evento che questa volta, visti i danni che provoca così estesi all'intera Europa, non dovrebbe indurre anche degli scatti tecnologici, per così dire? Non so se sia un problema tecnologico, se ci siano delle tecnologie, diciamo, specifiche solo per questo aspetto. Quello che è chiaro e che molti non percepiscono è che in realtà ci sono ancora degli aspetti che non conosciamo. Per quanto ormai il volo veramente restringa il mondo e ci faccia pensare, sbagliando, come diciamo prima, che tutto sia dietro l'angolo, che tutto sia real time, just in time, eccetera, in realtà ci sono ancora delle aree che non conosciamo. Pensiamo all'incidente che ormai è quasi di un anno fa del volo Air France per il Brasile, sì, che ancora ci ha fatto i tubi di Pitot. Tubi di Pitot che si ghiacciavano, ma anche il fatto che si è scelto per motivi di costo in realtà di non trasmettere in tempo reale i dati di funzionamento dell'aereo, mentre vengono inviati molto rapidamente dati commerciali quali guasti alla toilette, che sono scomodi ma probabilmente non inficiano la sicurezza del volo. No, cioè, certo, insomma, però voglio dire, io sono un po' colpito dal fatto che nella tecnologia, negli sviluppi della tecnologia dei propulsori di Formula 1, per esempio, in particolare sui filtri atmosferici che vanno al motore, hanno fatto dei passi avanti negli ultimi 5-7 anni, di cui sono testimone, cioè ci sono messi fior di squadre di ingegneri a studiare questo problema, perché era un problema relativo alle diverse tasse di umidità dei nuovi paesi in cui ospitavano i Gran Premi. Allora mi chiedo se sui filtri antiparticolate, sui reattori eccetera eccetera, non sia il caso di pensare anche a sviluppi tecnologici di questo tipo, perché atterrare il traffico per giorni interi in mezzo mondo è un danno incredibile. Comunque la natura può e l'uomo non si deve illudere, cari i miei ambientalisti che sostengono che l'uomo fa tutto. Bene, per oggi abbiamo finito. Io ringrazio regia Filippo Aureggi e Alessandro Marco Tulli in redazione, linea Angela Radio, appuntamento a domani.